quando lei dice che dobbiamo riscoprire i valori con cui stare assieme, perché per 20 anni ci sono stati spiegati solo i valori singoli, individuali, io sono d'accordo, facevo l'esempio della barca, si può fare anche l'esempio di Tuareg, che quando attraversano il deserto stanno assieme, perché sennò da solo muori nel deserto, assieme dividi compiti e responsabilità. Però questo vuol dire poi concretamente anche per il mondo delle imprese la necessità di non ragionare solo come l'impresa accanto è mia concorrente, ma dobbiamo tenere assieme un tessuto sociale, quindi anche le imprese devono cercare di, tra virgolette, allearsi, stare in rete? Ma le vie saranno diverse e si tratterà poi di tracciarle queste vie, però insisto sul punto, non si dà crescita economica solida laddove non cresce anche la società e dentro la società laddove non crescono le persone. Questa lezione è chiarissima. Se guardiamo anche la Germania, che si trova in, che arriva a questo appuntamento in maniera un po' diversa dagli altri paesi, ricordiamo però che 10 anni fa la Germania era appunto considerata la grande malata. E la Germania arriva qui perché ha avuto un grande progetto politico, un grande progetto dell'unificazione. E questo è quello che è mancato ad altri paesi, cioè alla fine le energie umane, la capacità di risolvere i problemi, la voglia di fare, nasce dall'iniziativa personale, ma nasce anche da un discorso poi comune e dallo stare dentro a un progetto più ampio, che è il tema dell'Europa oggi. Il tema dell'Europa oggi è far nascere un'unità politica, ma anche dire che cosa l'Europa vuole essere nel mondo. Se non riusciamo a fare questo salto, chiaramente l'Europa rischia veramente grosso. Ecco, secondo lei, per concludere, nell'errore di un, o nell'eccesso di un iperindividualismo tutto giocato su una parte finanziaria, è ricaduto anche l'euro, cioè il fatto di aver fatto un'Europa solo basata sulla finanza, sui conti pubblici e sulla moneta, e non su un processo decisionale, su un obiettivo comune? Cioè è per questo che poi noi vediamo in questo momento ritornare non solo l'individualismo, ma proprio le istanze nazionalistiche, Grecia contro Germania, Spagna contro i paesi del nord e via così. Certamente sì, anche qui forse ci siamo dimenticati di quel percorso che è stato leggermente patetico della Costituzione europea. No, vi ricordate che era stata approvata questa Costituzione che poi le votazioni nazionali hanno respinto? Ecco, l'Italia arriva alla crisi del 2008 avendo mancato quell'appuntamento, l'Italia, l'Europa, scusate. E allora questa incapacità di aver fatto seguire la Costituzione dell'euro un'unità politica è veramente una deficienza storica, una carenza storica che stiamo pagando cara. Il problema però è che abbiamo parlato tanto, abbiamo scritto tanto, ma ancora non abbiamo capito che cosa vuole essere l'Europa in termini di progetto, come dire, umano, se mi permettete, prima che politico, cioè che cosa l'Europa vuole rappresentare per se stessa e per il mondo. E naturalmente questa carenza è una carenza che fa sì che poi i politici che si trovano ai tavoli pensino alla fine, come dire, ai propri interessi nazionali.